avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme. Non prendetemi per uno snob con la puzza al naso che guarda il resto dell'umanità con quella sufficienza, con quel distacco, con quell'alterigia che li fa considerare tutti dei poveri, volgari, esseri distanti dal suo punto di vista. Questa mattina vorrei fare una riflessione. Vorrei fare una riflessione su una porzione di umanità che a me è sempre affascinato. Vi lascio un po' di suspense. Io sono convinto che in realtà il vero motore della contemporaneità non sia più rappresentato dall'intellettuale, come l'abbiamo sempre visto, al centro del dibattito culturale, al centro dell'innovazione del pensiero e via dicendo. Non lasciatevi incantare dal fatto che nei luoghi di discussione più elevati e più conclamati, anche più contrastati e per questo più degni di attenzione e di consenso pubblico, esistano le persone che realmente costruiscono la società. La società, soprattutto nelle sue più innovative forme, quindi l'espansione della rete, la tecnologia come supporto all'umanità, l'uso intenso, fascinoso e lussurioso di protesi emotive, è composta da coatti, da burini, da tamarri. Lo dico questo con senso di rispetto, non c'è nulla di denigratorio nel mio modo di esprimermi. Io trovo che il tamarro sia il vero humus della società, perché è un po' come un barbaro, nulla a che fare con i barbari di baricchiana memoria. Baricco dice ai barbari con una sorta di frisson, con una sorta di brivido di ammirazione per questa popolazione così belluina che sta cambiando il mondo. I coatti, i burini, quelli con il SUV, quelli con le catene d'oro, quelli con le mogli tatuate, con il coccige istoriato di fiori, quelli con la camicia aperta con il pelo di fuori, quelli con i catenoni, quelli sempre vestiti alla moda, quelli con le donne attillate, ipolabiate, ipertettute, e quelli che urlano, che strillano, quelli che portano i capelli rasati a zero per non far vedere la calvizie, hanno un po' la stessa dignità che riconosceva appunto Virgilio ed Enea, i suoi uomini che coprivano la canizie con l'elmo, perché la vecchiaia andava nascosta con l'elmo. Beh, oggi il coatto taglia i capelli a zero per non far vedere che il tempo passa per lui e fa di questo motivo di orgoglio. Beh, questa mattina vorrei individuare questa stupenda genia di umanità, però in maniera capillare, in maniera regionale. Vorrei che ognuno di voi questa mattina mi determinasse le caratteristiche morfologiche, le capacità espressive, la maniera d'essere, di porsi, di vestirsi, del tamarro, del coatto, del burino, delle sue latitudini. Il genovese, il milanese, il marchigiano, l'umbro, lo conosco benissimo, ve ne darò saggio, il laziale che è il più noto, il più conclamato, poi scendendo giù c'è il coatto pugliese che Cozzalone lo ha rappresentato in maniera mirabile, ma c'è il napoletano, c'è il calabrese, c'è il siciliano, poi ci sono anche i coatti delle isole, sono molto più restii i sardi a definire la coattaggine, ma chi conosce bene da vicino, poi ha concomitanza e assiduità di frequentazione con i sardi, sa che in ogni provincia della Sardegna c'è il coatto, c'è il tamarro sardo, ma è più difficile perché è un campione antropologico molto più nascosto. Questa mattina vorrei farli venire alla luce. 800240024, per favore aiutatemi a descrivere la mappatura del coatto nazionale. Essere tamarro? Perché no? Perché significa sovvertire l'ordine naturale dell'eleganza, della solita forse impostata concezione del buon gusto. Un tamarro se ne frega di essere ricercato, un tamarro se ne frega di fare bella figura con i genitori della fidanzata. Il tamarro ha la dignità dell'uomo o della donna che sa essere se stesso e che non si vergogna di farlo capire con un tatuaggio troppo vistoso. E se Jersey Shore ce lo ha perfettamente spiegato, facendocelo toccare con mano con la trasferta fiorentina, in Italia arriva direttamente su Italia 1 Tamarraid, una sorta di compendio truzzo di italico stile. Ci spiegherà tutto Fiammetta Cicogna, quella di Chiambretti Knight e Wild Oltrenatura, mitologica figura a metà strada tra la velina di importazione e il Piero Angela dell'Italia. E questa è la prova, e quello che sto dicendo sta emergendo come realtà. Italia 1, la rete televisiva dedicata al trend, dedicata comunque alla lettura meno generalista possibile del mondo visto attraverso TV generalista. Italia 1 è il punto di unione fra la televisione satellitare, la televisione targettizzata, televisione cosiddetta giovani e la vecchia, catastrofica, putrefatta televisione generalista. Si muove con un piede qua, un piede là, facendo un po' l'occhiolino, paraculeggiando in alcuni punti, toccando punti molto interessanti in altri punti. È la rete delle Iene, non a caso, quindi è una rete che comunque mantiene un contatto diretto, è una delle reti che perlomeno è più percepita da un pubblico giovanile, un pubblico che ancora non ha infilato il catetere e non si è spaparanzato e saldato sulla propria poltrona. Beh, fa una trasmissione, tra l'una dedicata ai tamarri. Per la prima volta i tamarri, che hanno rappresentato il sottofondo semiparlante di tutti i programmi TV generalista è costellata i tamarri, ma non si chiamano tamarri, si chiamano opinionisti, si chiamano tronisti, si chiamano giornalisti, si chiamano conduttori. Sono coattissimi nel loro modo d'essere, osservateli da vicino, guardate le camicie, le cravatte di certi conduttori dei più importanti telegiornali, guardate il loro taglio di capelli, guardate le labbra pompate, guardate le camicette, le magliette delle conduttrici, ma anche delle austere e integerrime giornaliste. La tamarraggine regna sovrana, ma nessuno ancora ha avuto mai il senso, la volontà di scoprirla. Italia 1 fa un programma dedicato ai tamarri, naturalmente distanziandosi notevolmente, creando una classe di tamarri talmente paradossale a sembrare irreale. Fa la burletta e non l'ho visto questo programma, sto improvvisando come sempre ho fatto in 15 anni in cui parlavo di televisione, ma immagino che sia questo. Saranno dei tamarri paradossali massimalizzati per far capire che ancora la tamarraggine reale concreta che gestisce il grande spettacolo televisione nazionale ne è ben distante. Scusa, permetti alcune domande sull'inchiesta? De corsa, però, perché vado un po' depresso. Sessualmente si ritiene soddisfatto? Alla grande. Lei è sposato, ha figli? C'ho figli, ma non sono sposato. C'ho un figlio a Stoccolma, un altro a Copenaghen, un altro in Romania e un altro a Riccione. Però quello di Riccione non ho fatto, quello di Riccione però ho fatto con la tedesca, una vecchiotta, però con i mammalucchi, quel grano, capisci? Purtroppo sono uno che qua in attacca non sa frenare. È il limite mio, purtroppo. L'attuale maschio ladino predilige sempre come luoghi per l'incontro d'amore, non so, la classica casetta al mare, la casetta in montagna, la garçonnière, lo studio di un amico. Lei... Io in genere lo faccio sul cofano. Ma non lo trova un po' scomodo, al freddo, all'aperto? Sono uno che tira i marci, il cofano mio è sempre bello caldo. Ok. A questo punto passerei al test. Sì. Mi rispondo a queste due precise domande. La prima. Sua nonna sta per morire, ma ecco che le telefona a Boderek. Sì. Ora succede. Se lei va con Boderek, sua nonna muore. Se si rifiuta... Vi lascio la risposta del tamarro verdoniano e l'ho anticipato perché mi serviva una rappresentazione dell'Italia centrale, vaga, in cui non si riconosceranno naturalmente i toscani, gli umbri, i marchigiani, però che dà l'idea comunque del tamarro del cuore del nostro paese. Poi ho provveduto a munirmi di alcuni esperti in tamarraggine o perlomeno alcune persone che osservano molto da vicino i costumi dell'umanità, e nell'umanità c'è questa particolare fetta predominante di esseri umani che sono i tamarri. L'uno è Tommaso Labranca. Tommaso Labranca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Ospite consueto alla nostra missione e presto anche voce di Radio 24, ma dedicheremo uno spazio a questa meravigliosa anticipazione. Preparatevi ad ascoltare Tommaso a questi microfoni. Tommaso Labranca, tu coprirai il nord Italia in generale. So che tu sei più specializzato nell'area brianzola, area scaturigine inarrestabile, tamarraggine, però mi darai una mano per il nord Italia. Invece per il meridione del nostro paese ho al telefono Floriana Turzi. Buongiorno Floriana Turzi. Buongiorno a tutti. Giustamente riconosciamo questa mattina a Floriana Turzi il primato di aver definito la Tamarrede con un suo libro, Tamarrede edizioni Bupen, ma il programma su Italia 1 è ripreso dal tuo libro, tu hai avuto contatti con loro? No, assolutamente. Cioè t'hanno scippato il titolo, sì. Te l'hanno sfogliato ma non t'hanno nemmeno telefonato? Non so se l'hanno sfogliato neanche, veramente, comunque sì, il titolo l'hanno sfilato via. Ecco, tu hai analizzato il tamarro meridionale, ma con una accuratezza filologica, partendo addirittura dalle origini mitologiche del tamarro, citando Polifemo come uno dei primi tamarri, che mi sembra un esempio conclamato proprio di tamarraggio. Sì, ma cosa c'era di tamarro Polifemo? Perché faceva il pastore, poverino. Prima di tutto era greve, diciamo così, e poi secondo me appunto questa analisi parte così indietro perché la domanda è: nasce prima l'uomo o il tamarro? Che uno si domanda e alla fine poi non c'è risposta, o meglio c'è una risposta. Beh, anche Adamo era tamarro abbastanza, con la foglia di fico davanti. Sì, ma era più stile, nel senso che insomma, ma si portava via la moglie seminuda, la location, insomma, il paradiso terrestre, l'Eden, era una cosa molto molto così, mangiava le mele a morsi, dai, più tamarro di Adamo secondo me non ce ne stava. Quindi si torna sempre alla domanda, cioè l'uomo nasce tamarro, il tamarro viene prima dell'uomo, insiste sull'uomo, insomma ci sono parecchie comunque domande. Tamarro, visto l'etimologia di tamarro, è venditore di datteri, quindi come il burino è il venditore di burro, il tamarro veniva individuato in quel poverino che andava a vendere i datteri, veniva preso in giro dagli altri in quanto venditore di datteri. Poi da lì però questa cosa ha cambiato completamente, proprio radice etimologica, si è arricchita e soprattutto io tengo a precisare che la tamarraggine è trasversale, cioè non è relegata nelle pieghe del proletariato, di una classe sociale in particolare, e oggi a maggior ragione, perché come ha detto giustamente prima, cioè vediamo degli spettacoli di tamarraggi in televisione che non c'era secondo me neanche bisogno di fare una trasmissione dedicata. C'è anche da dire che ognuno di noi in sé ha degli aspetti tamarri, molte volte siamo gli ultimi a vederli, a notarli. Sto guardando in questo momento la mia camicia sbottonata, sto guardando il mio pantalone di marca nota, sto guardando la mia scarpa che è identica alle scarpe che ho visto questa mattina pubblicizzate su Repubblica, su una delle fantastiche pagine interne, quindi evidentemente anch'io ho del tamarro. Tommaso Labranca, sulla tamarraggine inconsapevole e su una possibile mappatura regionale della tamarraggine, secondo te è possibile? Ci saranno delle differenze sostanziali tra il tamarro regionale, o c'è delle categorie indissolubili da quali non si esce e si è tamarri tutti alla stessa maniera? No, assolutamente no, guarda, mai come nel caso dei tamarri siamo ancora all'Italia dei comuni praticamente, ma cambia il tamarro da città a città, non è neanche questione di regione, perché il tamarro, per restare qui nella mia zona, il tamarro cremasco è totalmente diverso dal tamarro di Como per esempio, proprio per motivi legati all'economia, alla disponibilità di ricchezza locale. Più c'è ricchezza, più il tamarro si nasconde, si mimetizza, perché comunque c'è la marca che nasconde in realtà il cattivo gusto. Per di più ci sono molti stilisti che stanno fomentando questa mania del tamarro, cioè grandi stilisti che erano nati come i paladini dell'eleganza, dell'understatement, oggi nutrono il tamarro continuamente con i loro marchi, e non facciamo nomi naturalmente. Sì, diciamo per la cui mutanda tipica che deve emergere dal pantalone è marchiata, poi se viene fatta in Cina o viene fatta nei luoghi deputati non cambia, l'importante è avere quella bella scritta bianca che esce dal pantalone e avere il pantalone lacerato al punto giusto. Sì, perché è una cosa astratta, capisci? Perché c'è il pantalone, la cintura, il cinturone, il pantalone, l'elastico delle mutande e poi il tatuaggio sugli addominali e poi sotto gli addominali. È proprio per la femmina è in zona coccigea. Sì, preferibilmente, però tutte e due i tamarri. Meglio ancora con una freccia che indica la direzione, è il top. Esatto, condividono comunque il tatuaggio tamarri uomini e donne sul polpaccio, in modo da poterlo poi esporre ai primi caldi. Subito tu vedi che appena febbraio c'è il primo raggio di sole, il primo bucaneve, loro hanno già i pantaloni a tre quarti oppure il pinocchietto, il tatuaggio. Guarda, sono già riempito di ascoltatori, fermatevi un attimo che sarà voi poi a giudicare, classificare e collazionare. Fabrizio. Pronto? Quatto di dove? Io sono di Ostia, Ostia Lido. Descrivi il coatto ostiense, velocemente. Io volevo semplicemente dire che il coatto romano c'è stata una forte evoluzione, nel senso che una volta il coatto era anche un tipo violento, oggi purtroppo il coatto, o fortunatamente, è pieno di finti coatti, cioè tipo per esempio Fabrizio Corona, che anche avendo la sua diciamo una posizione economica molto alta, finge di fare il coatto. Una volta il coatto era una persona che veramente bisognava. Sì, hai ragione, Corona si è immedesimato negli status esteriori dei coatti, non essendo per nulla coatto, né di stirpe, né di lignaggio, di famiglia, una persona educata, di ottima famiglia, ma non che il coatto sia di basso lignaggio, semplicemente è uno che ha capito che gli conviene creare uno status symbol coatto e l'ha massimalizzato, adesso addirittura anche un fratello minore uguale a lui, è il clone di se stesso. Perfetto. Carlo. Sì, buongiorno, io volevo portare la mia testimonianza, io ho 60 anni, su una evoluzione e involuzione, alcuni segni identificativi del coatto, poi ognuno farà le sue considerazioni. Io ricordo negli anni 70 il rapporto che il coatto aveva con l'automobile. L'automobile era la casa, la prima casa, l'alcova, e mandava dei segnali esterni chiaramente identificativi. Avevi il cagnolino che muoveva la testa, il volante. Che simboleggiava un movimento oscillatorio possibile, esatto, in quella macchina. Cioè, esatto, il volante. Ricoperto di pelo, ancora più pelo, allusivo. E poi si arrivava agli adesivi. Io no, aspetti, no, un passaggio fondamentale. La leva del cambio veniva svitata e sostituita con una leva Abarth corta per la macchina più sportiva, o addirittura con il teschio che si avvitava sul cambio. Esatto, esatto. E poi si arrivava agli adesivi con inviti espliciti. No, rompas las pelotas con le due ciliegie, oppure viva la mamma del sorcio. C'era tutta un... Me la dai o scendi. Tommaso Labranca, tu sei troppo giovane per ricordarti l'adesivo me la dai o scendi. Beh, questo è un complimento, mi ricordo tutto. E soprattutto il teschio al posto del cambio c'è ancora, l'abbiamo visto ieri sera a Tamarreide, c'era uno di questi tamari che aveva il teschio che fregiava la leva del cambio, quindi esistono dei... Sì, però diciamo è una reliquia di un passato che non esiste più. Ma sai cos'è? Forse sono cose che si tramandano in famiglia, cioè dal papà tamarro nasce il figlio tamarro e quindi tutta l'eredità viene portata avanti. Poi il teschio si metteva sulla 500 a cui poteva svitare il pomello del cambio, oggi sulle macchine moderne non si toglie, a contemporanee non, è inamovibile, il cambio è un monoblocco unico. Floriana Turzi, su queste evoluzioni, su queste prime segnalazioni, hai qualcosa da aggiungere rispetto al tuo luogo d'osservazione? Certamente sì, ma chiaramente il mezzo di locomozione è fondamentale per l'estetica tamarra, ma io non sono d'accordo, c'è stata un'evoluzione anche in quello, cioè perché per esempio non c'è più il teschio sul cambio ribassato eccetera eccetera, però in compenso ci sono i LED sotto la carrozzeria azzurri, per cui certo. Il SUV diventa una specie di astronave in decollo e si riconosce chiaramente immediatamente. Diciamo che i sintomi di tamarraggine presi proprio nella culla sono, almeno nella zona romana, laziale, non so se in altre città, le macchinette cilindrata 50 che regalano i genitori tamarri e i figli tamarri per andare a scuola, alle medie, al liceo, da quando hanno 14 anni in poi. Le macchinette sono già degli alberi di Natale, già dimostrano in realtà la passione, la voglia di tamarraggine dei ragazzini. Nel napoletano la macchinetta mi sembra che è usata, c'è addirittura un famoso video taccio accattato alla macchinetta. Lo dico in maniera... Sì. A Napoli c'è stata addirittura un'evoluzione del tre ruote. Allora, il tre ruote era l'ape, che era molto usata dal tamarro come mezzo di locomozione, e ne ho visti con i miei occhi di trasformati, cioè con la carrozzeria rossa, il cavallino Ferrari, quindi sì. L'ex tre ruote, quindi l'ape, e anche quindi l'evoluzione dell'ape, che è la macchinina 50 che viene bardata con queste strisce colorate, fari, alogeni, rientra totalmente l'aspetto della luminare, diciamo, è una delle cose. Sentiamo Giorgio, buongiorno. Buongiorno, qui a Milano il tamarro lo chiamiamo anche truzzo. Viene chiamato anche truzzo, diciamo, in slang milanese. Sì? Secondo me, sì. Prendo dal libro di Floriana Turzi, tarro, tauro, iauro, zazzo, zaccaro, maranza, maraglia, nagana, sgruso, truzzo, gadibbo, burino, boro, coatto, zauro, zanniero. Ce ne sono centinaia, ogni paese ha il suo tamarro. Non usiamo tamarro perché ormai è diventato televisivamente di pubblico dominio. Allora, definiamolo nel vestiario. Lei, se è un osservatore attento, ci dica oggi il tamarro come veste. Proprio praticamente si secondo me nasce tutto per farsi notare, perché comunque ha il suo seguito, cioè lui dal braccialettino alla catena, alla cintura, alla borchia, tutte queste cose sono fondamentali per lui per poi farsi notare, come un po' una preparazione, una danza dell'amore, ecco, come il tacchino che mette in mostra le sue piume. Lui sfodera tutti questi. Guardi, io trovo anche molto Tamara, la signora milanese a gambe nude d'inverno, oliate, che va magari in bicicletta ma con il tacco 14 e con la borsettina firmata. La Tamaraggi deve essere un pochino sradicata dai quartieri bassi, se no diventa un discorso post-pasoliniano. Tommaso Labranca. Beh, in effetti sì, però adesso con questo discorso ci stiamo allontanando dalla vera figura del Tamaro, che comunque è una figura periferica, perché è quello che tu chiami la signora in bicicletta, magari col cartellino No Oil, e il marito che lavora nell'industria dei petroli, quella è la tipica baruscia, cioè è un'altra figura milanese tipica che nasce appunto dagli ambienti ricchi. Il Tamaro non è risultato. Ma della stessa, diciamo, della stessa specie zoologica, oppure si differenzia proprio il ceppo? La specie zoologica è sempre quella del, come diceva il signore, faccio la ruota perché devo farmi notare, ed è vero, cioè il motore primo di tutto quello che c'è dietro i Tamari e sui Baius è sempre il farsi notare per conquistare, è il più maggio dei volatili. Che però è un lecito desiderio e aspirazione umana, io non sono un moralista del narcisismo. Sì, sì, assolutamente, ma insomma, il Tamaro non va condannato, io lo apprezzo. Noi classifichiamo soltanto, questo deve essere chiaro, non prendiamo una posizione di giudizio, le classifichiamo, siamo entomologi, abbiamo davanti gli insetti, le farfalle, le infiliamo sullo spillone per studiarle, non perché vogliamo loro male. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa, fra un po' con i Tamarri, Truzzi, Bauscia, Burini e via dicendo, che questa mattina saranno glorificati. Quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. È rotta la mia. Ma vuoi capire che ancora la mia all'infinita le pagà, eh? Vuoi capire che mi fanno un buco nel culo così, se non c'ho i soldi per pagare la rata della mia macchina? C'è manchi guadagni per mangiare, tu fai il tiramisù, se non ci voglio lavorare, sto a mangiare la minestra in col battuto. E se mi presento a vendere il folletto con la macchina a rotta miroccio, me ne comprano manco uno. Ma lì no, la fa la signora. Campamo un tontroiaio, c'è una lira. Io firmo a 12 kg di cambiare, e pensa a fare il tiramisù. E fai chilometri per comprare i savoiardi. I pavesini. E fermi pure per il culo. Sì, fa pure le smorfie, che tanza bellina. La semestà. Scusate, ma è il richiamo della Tamarraggine della mia terra. Questo è un gruppo favoloso, si chiama Apomatto, di ragazzi perugini che doppiano, come fanno a tutte le latitudini, film famosi nel loro dialetto. In questo caso è la nota scena di Shining, in cui Jack Nicholson con la mazza da baseball, cioè la moglie Jack Nicholson con la mazza da baseball, si difende da lui impazzito che la vorrebbe uccidere sulle scale, trasformata in una disputa fra burini perugini, in cui lui, venditore di aspirapolvere, rimprovera lei di essere andata, di avergli graffiato la macchina, che è uno dei più intoccabili sacrari del burino umbro, e quindi naturalmente questo mi richiama improvvisamente le mie origini tamarre, mi dà un brivido di piacevolezza. Stiamo questa mattina, vedo con grande successo e grande divertimento del pubblico, definendo la mappa dei tamarri. Fa molto bene definire gli altri tamarri, assolve dalla nostra tamarraggia individuale, ci fa sentire meno burini, ci fa sentire molto più signori, ci fa sentire molto più raffinati, ci fa sentire alieni dal vizio della tamarraggine, comunque coglie ognuno di noi. Basterebbe guardare i miei orologi, basterebbe guardare le montature dei miei occhiali, basterebbe guardare i miei gusti in campo femminile e vi direi che io sarei magari il più grande dei tamarri. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Chi è il burino? Il burino è importante distinguerlo, perché il coatto vero è ben differente dal burino vero, inteso come burino, so. Perché negli anni addietro per burino si intendeva quello che scendeva da di Castelli. È un castello, un laziale. Sì, per carità, però è il classico pidocchio ripulito, pidocchio di fatta, come si dice a Roma, nel senso che però aveva i soldi perché vendeva i formaggi. No, veniva con una scarpa o una ciabatta, faceva i soldi o ostentava anche quello che non aveva. E quindi era invidiato da tutti. Era sì, probabilmente cercava di essere invidiato, poi poverino faceva brutta figura. Cioè, un burino rispetto a uno come Brega avrebbe fatto comunque brutta figura, perché un Mario Brega è l'istituzione del coatto romano doc. che è differente, cioè la montatura d'oro con la lente azzurrata, camicia aperta, è completamente differente da quello che è poi anche la carata. Sì, ma si è molto evoluto oggi quel tipo di burino che dice lei, in realtà è il tronista che va in televisione con il gel abbronzatissimo. È un pidocchio rifatto. Ma la Pidocchio te me ne butto, non è che Pidocchio, perché Pidocchio sembra chissà è... No, per Pidocchio si intende il burino ripulito, no? Si dice così a Roma, burino ripulito. A Roma il coatto era coperto d'oro, perché il romano del 900, 950, parliamo di quegli anni, pensava a comprarsi l'oro, no, al mattone. Invece il burino, scarpe grosse e cervello fino, veniva a Roma morto di fame, investiva nel sì, anche mattone. Perché diciamo nell'immagine un po' pasoliniana del burino, infatti, erano tutti mezzi papponi. Erano tutti mezzi papponi. E il pappone investe in oro, mette subito il catenone, l'anello, tutti i personaggi più noti del Pantheon di Pasolini, alla fine mandavano le loro donne a battere, questo era il segno. Gabriele, da Lucca, finalmente usciamo un po' dagli stereotipi regionali. Lucca, il burino della Carfagnana, com'è? Sì, io insegno in Carfagnana e ho notato questa cosa, che qua va molto di moda invece il completino di squadra di calcio, quindi possibilmente di Serie A, e tra queste varie gradazioni poi chi si può permettere una vacanza all'estero? Beh, guardi che a Roma, Piazza Colonna, di fronte a Montecitorio, c'è il negozio con le magliette, i cappellini della Roma, è abbastanza nazionale. Sì, però qua è proprio, non è della squadra locale, è di tutte le squadre possibili. Quando uno va in vacanza, dicevo, i miti qua sono la Cecoslovacchia, per ovvi motivi, Barcellona, deve tornare rigidamente con la maglietta e il completino da calcio con cui passa le serate ovunque in discoteca. E con cosa si abbina, scusi, perché sotto cosa si mette, sotto la maglietta? Sotto la maglietta è il calzoncino della squadra di calcio. Ah, proprio completo, anche lo scarpino, il calzettone, tutto? No, la scarpa si rimane sull'Air Max della Nike. Quindi un ibrido da calcetto, sei vestiti da calcetto, diciamo. Cioè sì, per dare l'idea di essere sportivi. Poi ci sarebbe un altro capitolo da aprire, che però non è solo di qua, che sono i burini palestrati, che anche quelli sarebbero da descrivere in maniera abbastanza... Beh, uno basta andare in qualsiasi palestra e li vede, assieme all'impiegato, al velleitario, alla divorziata che va lì a cercare di rimediare tutto, c'è un basso continuo fatto appunto di palestrati, che sono quelli che si guardano quanto sono depilati. Ma tu ancora c'hai addosso sta roba, non sei ancora depilato, si ungono, e poi chissà perché, non ho mai capito. Lei mi spiega perché negli spogliatoi delle palestre gli uomini si asciugano i capelli con il phon, con il pisello di fuori? Cioè non è che si fanno la doccia, si vestono e poi si asciugano i capelli. C'è sempre questo grande ostentare di proboscidi. No, non l'ho mai capita questa cosa. Io infatti frequento poco le palestre per quello, per questa impudicizia nel mostrare le virilità. Me lo spiega lei? No, io penso che ci sia invece il problema opposto, almeno per la mia esperienza girando le palestre, che chi cerca di compensare con grosse masse muscolari è forse perché si sente nel suo... Lei dice quel poco che c'ha, almeno lo fa vedere, dice almeno poco che sia, comunque c'è. L'alimentazione, dovete sapere, che è una cosa primis. Ve l'ho detto, sino a questa palestra non ci venite. Forza questo addome. Quando voi sfoggiate sta tartaruga, pure quando andate al mare, ma andavate fatta sta tartaruga. Ci avete una rana adesso, no, la tartaruga, dai. Perché è una cosa importantissima per le donne, anche i glutei, perché noi come guardiamo un bel sedere di una donna, anche la donna guarda un bel sedere di un uomo, che proprio che le donne devono guardare un bel di questo. Questo è Davide, il coatto palestrato, diventato personaggio dell'Isola dei Famosi, poi adesso fa anche il testimonial, non ho ben capito di quale servizio. È una grande evoluzione. Tommaso Labranca, esiste poi questo sdoganamento? Il coatto, quando diventa esasperato e massimalizzato, diventa un personaggio, quindi viene fagocitato anche dal patinato mondo della pubblicità. Sì, ma è giusto che sia così, anche perché noi, siccome noi italiani tendiamo sempre a parlare male delle nostre cose, perdiamo poi l'occasione di capitalizzare ciò che abbiamo. Allora, se tu pensi che i tamarri britannici sono diventati poi degli idoli mondiali quando si picchiavano tra Mods e Rockers, per esempio, e noi non siamo in grado di fare questo, oppure prima, quando si parlava di coatti che vanno in giro con le catenazze d'oro e queste scarpe da ginnastica pesantissime, beh, ci sono anche in America, sono diventati i rapper e hanno cambiato la musica. musica mondiale. Noi invece ci vergogniamo sempre un po' di quello che abbiamo. Per fortuna la pubblicità non se ne vergogna e sfrutta tutto, ma anche senza dire Tamari, tutta la pubblicità di automobili che infesta radio e televisione in maniera imbarazzante, perché uno spot su due è di automobili. Li chiamano gli emotional, lo sai, si chiama emotional. Sì, ma le rivolte sono tutte rivolte ai Tamari, però alla fine. Beh, d'altronde chi compra tante automobili, cioè, la mia durata media di un'automobile sono 15 anni, ma l'ho cambiata da poco che non camminava più. Poi vedi, proprio non siamo in grado di apprezzare, tant'è anche perché nessuno vuole definirsi Tamarro. La vera novità di Tamarre del programma è che questi 8 personaggi dicono: io sono un Tamarro, magari non sanno neanche cos'è. Beh, la rinascita Tamarro, dell'orgoglio Tamarro, secondo me, è qualcosa che nel mio piccolo avevo già previsto. Ci sarebbe stato il Tamarro Pride prima o poi. Il Tamarro è stufato di essere sempre alla ricerca di una dimensione che non è la sua. Dice: visto che il mondo è imperniato sulla mia esistenza, che sono un consumatore, sono un ispiratore di trend, sono un ispiratore di sogni umidicci e delle signore che non ne possono più del marito impegnato nel mondo della finanza, degli affari e del pensiero, via dicendo, quindi è ora che io esca allo scoperto. E cosa ne dice Floriana Tuz, ricordo, scrittrice, autrice di Tamarrede, edizioni Bupen, il vero, unico, originale, primo libro sulla Tamarrede. Allora, io vorrei noto una cosa, che c'è stata una ibridazione del genere, cioè il neo-Tamarro... E lei è una purista, lo so, una filologa, giustamente. Sì, è diverso dal Tamarro originale, e in questa evoluzione poi si sono in effetti appiattite le differenze regionali, perché i giovani Tamarri, i neo-Tamarri, come abbiamo visto nel caso del completino di calcio, che è un must, nazionale, tendono ad uniformarsi e quindi a perdere le caratteristiche territoriali vere e proprie del Tamarro. Sì, perché già il Tamarro casertano è diverso dal Tamarro napoletano. Sicuramente, cioè il vero Tamarro casertano, ma non solo, siccome Napoli è una città molto complessa, i Tamarri sono diversi nei vari quartieri. Poi è contaminata Napoli, il casertano è rimasto molto autoctono. Molto contaminata, ed è una città complessa, per cui i Tamarri sono diversi in ogni quartiere. Saviano è un po' Tamarro, secondo lei, nell'aspetto esteriore, dico, nel look? Sicuramente. Sì, un po' ricorda quello. Adesso, a parte l'illuminato pensiero, però il modo di vedere, il capello rasato a zero per nascondere la calvizie, il modo di vestirsi apparentemente trascurato, un pochino sì, lo è. Sì, un po'. Ma no, questo gli porta merito, senz'altro, poteva ripulirsi e non l'ha fatto. No, infatti, perché è verissimo questo, cioè adesso il Tamarro rivendica molto il suo essere Tamarro. Ma infatti, guardi, adesso non voglio entrare in una questione, poi mi è venuto in mente, il fatto sia stato accolto in maniera così entusiastica nei salotti raffinatissimi, tipo il salottino di Re 3, è proprio la sua differenza, è lo stesso segno di portare Bertoldo alla corte del re, portare una persona che esteriormente ha ancora questa rudezza in un luogo che ormai è effeminato, affabulato, ripulito, vellicato, profumato, o non sei d'accordo? Sono assolutamente d'accordo, e anzi penso che sia proprio questo che fa crescere l'interesse, cioè dato che la nostra è una società estenuata in un certo senso, molle, allora il Tamarro è l'unica immagine vigorosa che ancora abbiamo. Ma infatti, quindi, quando l'ho associato al barbaro, è proprio colui che porta sangue nuovo, sangue fresco, in una società che ormai a forza di congiunzioni in famiglia è ridotta al lumicino. 800 24 00 24, ci fermiamo solo un istante per dare le informazioni del traffico e per la gioia di Tamarri, che in questo momento saranno felici. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé. Pourquoi se séparer? Melog 2.0. Siamo qui con Checco Zalone, ormai da diverso tempo primo in classifica. Checco, ma che cosa provi? Ma sicuramente fa piacere, voglio dire, sarei un ipocrita se dico il viceversa. Però vedi, un cantante gioisce quando ha uscito un sentimento, quando questo sentimento che lui esce attraverso le emozioni delle sue canzoni arriva alla gente, ed è lì che come, quasi come un boomerang ti ritorna indietro sotto forma di successo. Checco, questo lavoro a chi lo dedichi? Ma non posso che dedicarlo ad Angela, d'altronde è immensamente Angela, quindi questo è fuori luogo. Angela è la persona che io amo e che mi piace fare la metafora come è una Giulietta Masini, no? di Romeo, cioè la donna che è stata sempre... Forse proprio uno dei dei segni evidenti del successo improvviso e dirompente di Checco Zalone è la sua naturalezza nell'esporre i sintomi della tamarreide estremi, che è proprio questo imitare un linguaggio che non ti appartiene, un linguaggio che in realtà lo vai a cogliere, lo vai a raccogliere da cosa? Dal linguaggio degli altri tamarri che vedi in televisione, la dedica tipica del cantante quando è lambito, anche se in maniera molto superficiale, al successo, è quella di ripetere quello che ha visto fare 100 volte in televisione da altri come lui, che però hanno già fatto un passo avanti. 800 24 00 24, questa mattina stiamo definendo i coatti, i truzzi, i buri, i burini, insomma quelle persone che ci fanno un po' sorridere, ma nelle quali sarebbe bene per la nostra salute mentale e per la limitatezza del nostro ego smisurato che ogni tanto considerassimo quanto noi assomigliamo a queste persone e quanto queste persone in realtà sono la parte più vitale, la parte più incontaminata, la parte che ha un futuro della nostra vecchia, antica e fiacca società. Andrea, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io adesso sono in autostrada, sono stato superato da un tamarro e sì, ho fatto caso che il tamarro al volante ha una caratteristica: che sia in autostrada o che sia in città, guida con una sola mano, che di solito è posizionata sulle ore 12. Perché se sta in autostrada, il tamarro tiene con la sinistra il volante e ha il braccio sul sedile di destra, come se abbracciasse qualcuno. Sì. Se invece è in città, usa la destra, perché la sinistra sta fuori dal finestrino, che sia anche inverno, per mostrare il Rolex finto. Sì, deve stare attento che di questi tempi passa uno col macete e gli stronca l'avambraccio, perché appunto, succede. Appunto. Però è un rischio calcolato, pur di mostrare l'orologio patacca. Esatto. E dopodiché assume una posizione di guida come fosse seduto in una Formula 1, per cui praticamente disteso, incredibile, lui sta disteso al volante. Infatti è impossibile sedere nel sedile posteriore dell'automobile di un coatto, anche se fosse un SUV, perché manda tutto il sedile indietro, quindi dietro non c'è spazio per nessuno, perché lui è in una monoposto, è giusto. L'altra mano è spesso occupata nel tenere il cellulare in mano, non capisco perché oggi anche le automobili di classe media hanno un viva voce con Bluetooth in macchina, che è una grande novità. Esistono gli auricolari, lui la voce, ma deve avere sempre questa mano col telefonino. Molto anche le donne, Roma è piena di donne con le smart, con l'iPhone attaccato all'orecchio, che parlano, urlano e gesticolano. Poi la mano destra usata per ravanarsi le parti intime, per scaccolarsi, c'è una serie di attività fisiche in cui può essere impiegata. Sergio. Buongiorno, sì, volevo parlare, io chiamo da Milano, volevo parlare di una figura di tamarro che io ho notato soprattutto tra gli agenti immobiliari. Guardi, sfonda porte aperte. I venditori di case hanno sempre degli abiti, generalmente dei gessati o comunque degli abiti rigati. Pantalone molto camicie... stretto, molto stretto alla caviglia, pantalone. Esattamente. Con risvolto camicie... molto alto, con risvolto esatto, molto alto. Esatto. Camicie con qualche volta anche con colori sgargianti, con le cuciture esterne e dei nodi un po'... Colletto, diciamo... a tre bottoni, non so dove trovano queste camicie, esatto, che hanno tre bottoni al colletto, quindi altissimo, nodone alla cravatta. Gesticolano tantissimo quando parlano, qualche volta in qualche caso hanno le scarpe, anche chewing gum. Le scarpe? Le scarpe sono quelle, diciamo, leggermente strette in punta. Molto strette, sì, squadrettate. Esatto, squadre leggermente rialzata, ecco. C'è sempre la da gnomo un po' alta, e usano molto tutte le nuance che va dal cacarella al diarrea, perché sono tutte color giallo, giallino, gialletto, con abiti blu che stonano tantissimo, però va molto nel genere, evidentemente sono dei segni distintivi. Sergio, l'abbiamo fatto. Vincenzo. Sì, buongiorno. Sì. Senta, io volevo dire che c'è chi proprio come me, purtroppo, per fortuna, non lo so, nasce tamarro. Quale latitudine esprime la sua tamarraggine? Io, guardi, per esempio... No, dove sta lei? Dove abita? Io sto a Genova. Ah, Genova, oh, finalmente qualcosa. È vero, si chiama Gabibbo il tamarro dal vostro paese? Sì, si chiama in tanti modi, Gabibbo, tamarro... E me lo descriva, come è fatto? Come è fatto? Ma guardi, io posso parlarle di me? Beh, parli di lei. Che... Sì. Per esempio il mio abbigliamento io non compro nulla per apparire. Glielo regalo. Mi fa star comodo. Però in ogni caso non ho il portamento cioè se compriamo un abito elegante io e lei lo mette lei, risulta diventa. Ma guarda che io faccio schifo. No, vabbè, io dico lei per dire. Ma per dire una persona fatto per tamarro subito, perché non ho il portamento, anche nel parlare sono grezzo. Però cioè, guardi, lei, lei mi fa parte del mio. Sì, però lei mi mette qualche sospetto. Sì. Penso, chiedo il conforto di Tommaso Labranca. Mi puzza di tarocco questo tamarro, Tommaso. Perché? Ma perché secondo te un tamarro ha questa consapevolezza e questa sorta di capacità di esposizione della propria tamarraggine così candida? Non lo so. Sì, perché evidentemente ci sono quelli a cui viene detto continuamente: ma tu sei tamarro, tant'è che uno alla fine si convince, si autoconvince, e sono i migliori quelli tamarri. I peggiori sono quelli che non sanno di esserlo, come diceva prima quel film. Cioè, un tamarro liberato, ha fatto coming out, quindi lui può permettersi qualunque tipo di espressione. Esatto. Può dirlo senza vergogna di essere un tamarro, perché tanto, voglio dire, me lo dicono gli altri. Allora vedo adesso che hai fatto un corposissimo articolo sull'ultimo numero di oggi, che ha anticipato tutta questa trasmissione. Aiuto, arrivano i tamarri in TV. Scusa, ma hanno sottoposto adesso. C'era già scritto tutto, potevo leggere quello, sarei stato documentatissimo. Floriana Turzi, chiudiamo con qualche integrazione, visto che il Meridione è stato abbastanza trascurato, perlomeno nelle nostre telefonate. C'è una reticenza nel dichiarare la propria autotamarraggine a quelle latitudini? Sì, assolutamente, perché spesso c'è inconsapevolezza, cioè qua non c'è ancora l'orgoglio tamarro, tranne in alcuni esemplari femmina, cioè nel senso le donne sono più padrone della propria tamarraggine. Sì, perché la tamarra è bella, però diciamo è carnale, si espone. La tamarra è molto carnale, la tamarra napoletana è una cosa meravigliosa, cioè ho detto praticamente poi prende tutti i cinque sensi, anche l'olfatto. Perché odora molto di ascelle, perché... soprattutto no, odora proprio di profumo. Ah sì, è irrorata sì, no, è disinfettata. E quindi lei sa che dando questa piacevole sinestesia al mondo, giustamente può essere orgoglio al suo modo d'essere. Grazie infinite alla scrittrice, autrice tamarrede Floriana Turzi, grazie a Tommaso Labranca, grazie a tutti gli indicatori di tamarri ci hanno chiamato questa mattina. A domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.